Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, sono famosissime le grandi migrazioni delle farfalle monarca che migrano a milioni, a quanto pare, dal Nord America al Messico. Però il punto è che anche il nostro continente è interessato da spettacolari migrazioni di farfalle. Si tratta delle farfalle Vanessa, ma ci facciamo raccontare come sono e come fanno a migrare da Francesco Barbieri, entomologo responsabile scientifico della cooperativa Farfalle nella Testa. Buonasera Francesco Barbieri. Buonasera a voi. Benvenuto. Allora, grazie. Dicevamo, le farfalle monarca sono famosissime, ma anche in casa nostra, insomma, è meta di grandi migrazioni di farfalle. Sì, direi che non come vediamo in Nord America, la farfalla monarca migra dal Messico, arriva fino in Canada e quindi può fare più di 3.000 chilometri in alcuni casi e più che altro costituisce gruppi di migliaia e migliaia di individui. E, da noi ci sono diverse specie che migrano lo stesso, non hanno un comportamento gregario come le monarche che si riuniscono tutte insieme quando svernano in Messico. Ma anche noi abbiamo le nostre migrazioni. Qualche anno fa, per fare un esempio, c'è stata una stagione particolarmente ricca di vanesse del cardo, che sono delle farfalle che ogni primavera migrano dal Nord Africa. Ecco, come le riconosciamo? Allora, la pagina inferiore delle ali, diciamo che è quella che si vede quando la farfalla tiene le ali chiuse, è abbastanza mimetica, quindi è difficile vederla perché appunto ha un colore che è fatto proprio per rendere l'animale poco visibile, come succede spesso nelle farfalle. Invece nella pagina interna delle ali, cioè quello che vediamo quando la farfalla ha le ali aperte, è di un bel rosa arancione con macchie nere e bianche e direi che è una delle più belle farfalle italiane. Ecco, riconoscere le farfalle Vanessa è importante per chi volesse partecipare ad un progetto promosso dall'Università di Berna in Svizzera, un progetto proprio di citizen science, cioè coinvolgere i cittadini e le cittadine nel mappare gli avvistamenti di queste farfalle per capire meglio proprio gli schemi di migrazione di questo insetto nel vecchio continente. Anche perché sappiamo che la Vanessa del cardo parte dal Nord Africa e arriva in Europa, ma non ci sono ancora prove che torni indietro alla fine della stagione, quindi è ancora controversa un po' la storia. Senta, però, una farfalla farà 500 metri in un'ora, com'è che queste qui, per esempio le americane, fanno 3.000 chilometri? Evidentemente non migra il singolo. Diciamo che quando partono dal Messico e devono andare in Canada, normalmente fanno delle tappe e si riproducono, per cui in realtà in Canada non arriva proprio la stessa farfalla, ma una o due generazioni dopo. In realtà però le farfalle non è che utilizzano solo la propria forza per le migrazioni, per esempio le vanesse di cui abbiamo appena parlato utilizzano gli spostamenti delle masse di aria calda, volano a una certa altitudine e sfruttano questi venti caldi che dal Nord Africa vanno verso nord, verso appunto l'Europa. Ecco Francesco Barbieri, dalle migrazioni delle farfalle passiamo a parlare dell'allevamento di farfalle. Voi collaborate con degli allevamenti in Costa Rica. In che cosa consiste questo progetto di cooperazione allo sviluppo? Pochi sanno che le farfalle che vediamo, vedete nelle case delle farfalle, noi qua a Bordano ogni settimana nascono più di 1.000 farfalle che arrivano ogni settimana sotto forma di crisalide da allevamenti tropicali. Noi collaboriamo proprio con il più grande allevamento americano in Costa Rica, si chiama il Bosque Nuevo, perché è un progetto molto speciale. Il progetto Bosque Nuevo ha come fine l'utilizzo degli utili derivati dalla vendita delle crisalidi per acquistare terreni coltivati e riconvertirli in foresta originaria. Quindi noi acquistiamo le crisalidi in soldi che vengono guadagnati, gli utili che vengono prodotti da questo commercio, servono appunto per tutelare la foresta, ma non solo, per ripristinare l'ambiente naturale. Quindi non, è un'economia, quella di allevare e vendere i crisalidi alle case delle farfalle, è un'economia che non solo non ha un impatto ambientale, ma addirittura un bilancio positivo sull'ambiente. Per questo noi raccontiamo la storia dell'allevamento delle farfalle, perché è a pieno titolo l'esempio migliore che io possa immaginare di sostenibilità. Perché le persone locali, in particolare queste in Costa Rica, gli agricoltori, invece di coltivare un campo di ananas, allevano poche farfalle, perché poi con le farfalle si guadagna meglio che con le ananas, e non hanno alcun impatto ambientale, anzi, devono coltivare piante selvatiche. Senta, ma vorremmo le farfalle in città, è possibile? Certamente sì, ci sono diverse specie che vivono tuttora in città. Faccio un esempio: la vanessa è comune in città, perché le larve tipicamente si nutrono di ortica. L'ortica è una pianta che si trova lungo i fossi, ma proprio è una pianta che è comune anche nelle città dove ci sono delle aree verdi o anche dei giardini. Quindi a cosa serve per richiamare le farfalle in città? Appunto. Ecco, serve ovviamente fornire loro la pianta nutrice delle loro larve, dei bruchi. Quindi volete vanesse, piantate ortiche, volete macaoni, che sono quelle meravigliose farfalle gialle e nere con le code, che sono anche molto grandi, o i podaliri, che sono anche quelle delle specie bellissime, grandi, con delle lunghe code. Il podalirio si nutre di prugnolo, per esempio, la larva, quindi se uno c'ha un prugnolo sul selvatico, è pieno nelle città, se lo mette in giardino, aumenta la probabilità di vedere quelle specie, oppure, che ne so, le carote selvatiche per il macaone. E ovviamente, oltre alle piante nutrici dei bruchi, dobbiamo anche fornire dei fiori che possano offrire il nettare per gli adulti, perché mentre il bruco mangia foglie delle piante, gli adulti, quindi le farfalle che volano, si nutrono di nettare o liquidi zuccherini comunque. Ma la presenza o l'assenza di farfalle in un territorio è un indicatore biologico del benessere o del malessere dell'ecosistema? Può esserlo, sì, ma dobbiamo precisare una cosa: alcune specie sono indicatori biologici, altri no. Faccio un esempio: pochi anni fa abbiamo introdotto una specie dal Sudafrica, una farfallina che si chiama Cacireus, chiamata appunto la farfalla dei geranei, è stata importata con le piante di geranio importate dal Sudafrica, adesso ha colonizzato tutto il nostro paese. Io sulla mia terrazza vedo spessissimo queste farfalline, che sono piccole farfalline, marroncine screziate di bianco, con delle piccole codine nella parte posteriore, che interessanti perché imitano la testa dalla parte opposta, un sistema difensivo. Però se noi vediamo queste farfalline sulle nostre terrazze e sui nostri vasi, non vuol dire che l'ambiente è sano, anzi vuol dire che abbiamo introdotto un animale esotico e quindi abbiamo creato un ulteriore squilibrio ambientale, perché ricordiamoci, una delle principali minacce per i nostri ambienti è proprio quello. Non pensiamo che se introduciamo una pianta allora abbiamo la natura e va tutto bene, dobbiamo introdurre la pianta adeguata, quella giusta. Esattamente, perché sennò creiamo un danno, perché le piante importate entrano in competizione con le piante naturali, quindi dobbiamo mantenere il nostro ambiente naturale. Sono stati fatti molti errori, infatti, in questo sì, modo. Sì. Pensiamo alle nutrie, le nutrie le avremo per sempre, pensiamo al gambero rosso, le avremo per sempre, ormai... Sì, specie aliene che hanno colonizzato altri habitat. Senta, però, per esempio, se andiamo in montagna, tra i boschi... Molto spesso mi viene detto, non è più come una volta, quando andavamo in montagna c'erano più farfalle, vuol dire che l'ambiente è peggiorato. In realtà non è così, è che adesso ormai gli allevamenti di bovini sono diminuiti, questi prati che erano stati fatti tagliando la foresta originaria, questi prati stanno scomparendo e la foresta originaria sta tornando ad occupare quelle aree. Quindi nelle foreste di montagna sono poche le farfalle che vivono, perché primo perché pochi mangiano le conifere, sono più che altro conifere in montagna, e secondo perché ci sono molti meno fiori su una foresta. Però il fatto che non vediamo più tante farfalle come una volta non vuol dire che l'ambiente sia peggiorato, anzi sta tornando la foresta originaria, solo che l'ambiente originario aveva in realtà meno specie di un prato di montagna che è ricco di piante erbacee. Quindi non sempre vedere farfalle vuol dire che l'ambiente è migliorato. Bisogna anche capire che dipende da che specie stiamo osservando. Senta Francesco Barbieri, ancora una curiosità: un po' in tutta Italia, lungo lo stivale, insomma, troviamo diverse case delle farfalle. Che cosa aspettarsi e perché venire a visitare appunto una casa delle farfalle? Beh, le case delle farfalle sono dei parchi faunistici in miniatura e si occupano più che altro di animali invertebrati, ovviamente tra cui le farfalle, che sono insetti. E all'interno della casa delle farfalle, noi faccio un esempio, la nostra casa delle farfalle a Bordano, abbiamo ricreato in tre serre diverse tre ambienti tropicali, quello africano, quello asiatico e quello sudamericano. E quindi a che cosa ci si aspetta a visitare una casa delle farfalle? Ci aspetta di entrare dentro un ambiente esotico, quindi visitare la natura tropicale senza dover prendere un aereo e senza dover spendere tanti soldi. All'interno ovviamente ci sono poi tutti i contenuti educativi per poter comprendere perché la natura tropicale è diversa dalla nostra, perché gli animali sembrano più belli quelli tropicali e tutto quello che viene dietro, quindi è un modo per capire la realtà naturale però osservando animali veramente spettacolari, che sono appunto quelli che ospitiamo in queste case delle farfalle, non solo farfalle ma mantidi religiose, scarabei giganti, abbiamo anche rettili, pesci, tutto però in un contesto naturale, e il visitatore quando entra appunto ha questa sensazione di entrare in una foresta, perché le farfalle sono libere e lui ci passeggia in mezzo, quindi è un rapporto molto intimo tra il visitatore e la natura. Francesco Barbieri, allora grazie per averci introdotto, seppur radiofonicamente, insomma, in una casa delle farfalle. Buona serata e buon proseguimento di estate. Grazie a voi, buon Arrivederci. Lavoro. Ci sono tante strade, tante macchine, adesso vi raccontano cosa combinano. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Alessandro Re, della redazione di Mebius, ha incontrato Gilberto Artioli e l'ha intervistato sul tema uomo di Similaun. Gilberto Artioli fa parte del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Avete tutti presente l'uomo di Similaun, quello che è congelato, un po' molto congelato, è stato trovato su delle montagne un bel po' di anni fa, è sempre sotto congelazione, e però è venuto fuori che la sua mazza, perché aveva con sé diversi utensili, proveniva dal centro Italia. E allora adesso sappiamo qualcosa di più, finalmente, insomma, aveva a che fare con la Toscana. Allora, entriamo subito nel succo della questione. Possiamo finalmente abbandonare questa dicotomia toscana-etruschi che ci ha accompagnato per tutta la vita, anche nei miei studi, insomma, non se ne poteva più. Adesso possiamo parlare di Toscana e Similaun. Ce lo spieghi lei perché possiamo fare questo accostamento? Sì, sicuramente. Abbiamo analizzato il metallo con cui è scomposta l'ascia e abbiamo fatto una scoperta che nessuno si aspettava. Ossia? Cui è stata prodotta effettivamente proviene dalla Toscana meridionale, l'area del Campiglia Marittima e comunque le miniere famose che venivano sfruttate nell'antichità, però nessuno si aspettava che venissero sfruttate così presto, perché prima invece era geolocalizzata in un'altra area, se non sbaglio. Dunque, l'ascia è stata trovata nell'Alto Adige al confine con l'Austria 25 anni fa, e quindi diciamo che tra gli archeologi nessuno si aspettava che fosse di proveniente Toscana e rame. Quando noi abbiamo presentato la notizia scorso settembre al 25ennale della scoperta a Bolzano, l'uditorio in prevalenza tedesco è rimasto totalmente esterrefatto dal fatto che non fosse né alpino né balcanico, perché tutto il rame in circolazione del quarto millennio avanti Cristo si pensava fosse fondamentalmente di quelle provenienze. Questa scoperta apre degli scenari nuovi anche per quanto riguarda il commercio e l'economia. C'è un'analogia adesso con le asce della pianura padana e della Toscana, e la prova è un contatto diretto chiaramente tra l'area alpina e l'area centro-italica, e quindi adesso la comunicazione e gli scambi tra le culture del Rinaldone in Toscana, del Remedello in centro Italia e quelle delle Alpi hanno una connessione diretta che prima non ci si aspettava. Però io vorrei fare un po' di chiarezza adesso sull'età di questo famoso uomo del del Similaun. La scoperta è datata a settembre 1991, da quel tempo sono cambiate un po' di datazioni. Diciamo che l'uomo del Similaun, la mummia, è stata trovata con tutto il corredo, diversi utensili, tutti i vestiti, ovviamente il corpo, quindi sono tutti materiali organici che possono essere datati con radiocarbonio con una ottima precisione. E anche l'ascia è l'unica ascia al mondo trovata insieme al manico di legno, quindi con la pece e le gacce, sì, quindi databile perfettamente, e tutto è risultato estremamente coerente, datato al 3200 avanti Cristo. Si chiama questa età eneolitica, giusto? È l'età eneolitica o età del rame. Ci troviamo nella prima età del rame e devo dire che la mummia di Iceman, come è chiamato l'uomo venuto dal ghiaccio, ha aperto una finestra su un periodo di cui si conosce pochissimo effettivamente, quindi sta continuando anche dopo 25 anni la scoperta a fornire, come vediamo, nuove informazioni di importanza. Per queste indagini lei ha parlato di carbonio, proviamo a spiegare di cosa si tratta quando parliamo di queste indagini cristallografiche e isotopiche. Hanno questi, sì, nomi suggestivi. Sì, sono cose molto diverse. Per la parte organica si usa il radiocarbonio, che dà una datazione, quindi si può dare in maniera assoluta la data in cui il reperto ha finito la propria vita e quindi è entrato nel record archeologico. Mentre invece nel metallo non c'è carbonio, non è possibile datarlo direttamente e possiamo fare delle altre indagini. Una dozzina d'anni fa avevamo studiato l'ascia in maniera non invasiva, quindi senza toccarla, con una tecnica abbastanza sofisticata con fasci neutronici, e avevamo dedotto il modo con cui era stata colata nello stampo e fabbricata. Quando diciamo ascia noi pensiamo subito agli indiani d'America, diciamolo, ai tomahawk, a tutte quelle immagini, e la loro però era un'ascia bucata con il foro per la lama. Quest'ascia invece made in Toscana è un po' diversa, vero? È molto tipica delle asce di quel periodo, che derivano dalle asce in pietra precedente del Neolitico. La forma è molto simile, queste sono già abbastanza evolute, hanno una specie di alette di incavo, per cui si potevano incastonare benissimo nel legno e alla fasciatura e quindi davano molto più solidità ai colpi effettuati. Certo. Sono asce comunque non di altissime prestazioni, quindi deve essere usata come arma, soprattutto per la lavorazione del legno, comunque per la lavorazione dell'osso, quindi comunque per lavori quotidiani. Però arma, lavori quotidiani, ma si è conservata benissimo. Sì, sì, è perfettamente conservata, è una di quelle meglio conservate, addirittura, come dicevo, è l'unica con il manico in legno originale, la pece con cui era attaccata, le corde e tutto il resto. Quindi è un oggetto assolutamente unico e è preziosissimo. Fantastico. Ma secondo lei quali sono i motivi di questa conservazione egregia? Beh, tutta la mummia con il suo corollario di strumenti è stata trovata ad altissima quota, sepolta sotto la neve molto presto dopo la morte, e ha avuto un fenomeno di mummificazione, di conservazione assolutamente eccezionale. Come dicevo, è uno dei punti fermi dell'età del rame, magari avessimo altri reperti di questo tipo. Chissà cosa ci riserva il futuro allora. Adesso con gli scioglimenti dei ghiacci e l'aumento della temperatura globale si stanno trovando molti reperti anche in alta quota che sono rimasti sepolti nei ghiacciai per tantissimo tempo. Quindi possiamo dire che non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo. Preferirei avere gli ghiacciai, ma comunque... Però se portano queste scoperte... Le scoperte veramente interessanti. Credo che la scienza debba affrontare anche questo molto presto. Sicuramente. Con questo auspicio allora la saluto, la ringrazio molto, professor Artioli dell'Università di Padova. Grazie a voi, a presto. Perché si dice 33? Federico, questa non è la domanda di un ascoltatore o di un'ascoltatrice, ma è il titolo di un libro pubblicato da Editoriale Scienza, quindi parliamo di un libro per ragazzi e ragazze, una lettura però interessante anche per i nonni, i genitori, zie e zie in ascolto, da fare insieme. Un libro che risponde a questa e a tante altre domande sulla medicina. Nel libro Federico Taddia intervista Andrea Grignolio e noi oggi intervistiamo Federico Taddia, che intervista nel libro Andrea Grignolio. Ciao Federico. Qui. Eccoci qua in questa matriosca radiofonica. Ciao Taddia. Ciao, grazie. Beh, io direi partiamo proprio dal titolo, insomma, perché si dice 33? Non lo sapevo e quindi me lo sono chiesto, l'ho chiesto ad Andrea e ci piaceva come titolo anche, benché si può dire, no? È stato un errore È stato un errore mettere questo titolo come libro perché i bambini non lo sanno che si dice 33. È un po' un modo di dire, capito, di qualche generazione precedente. Sì, però dai, diciamo che il libro l'acquistano i genitori. No, infatti, uno scherzo. Però perché si dice 33 è una bella storia dietro che appunto Andrea conosceva. Arriva dall'Austria, dove il figlio di un costruttore di botti che poi studiò medicina e studiava in particolare i bronchi, si ricordava di come il padre gli aveva insegnato a riconoscere se una botte era piena o vuota, o mezza piena o mezza vuota, dal suono, no? Bussando sulla botte. E lui questa tecnica l'ha utilizzata anche battendo sulla schiena e cercava un suono che aiutasse ad amplificare appunto il rumore dei bronchi. Un suono che in austriaco non lo so ripetere, però i dottori italiani l'hanno riprodotto con questo 33. E infatti paese che vai, suono che infatti, trovi. Ah, certo, 33 non è mondiale. Non è mondiale, no, certo. È solo nostro, è local. Perché ha dentro quel rumore, quel 33, cioè c'è un qualcosa che smuove, strizza, okay, il suono. E quindi ci piaceva, insomma, come suona, ci piaceva e dava molto la linea di quello che è questo libro, no? Che sono tanti aneddoti, tante storie, anche perché Andrea Grignoli è storico della medicina, e anche in insegnamenti di buon senso legati non tanto alla malattia, ma anche alla qualità della vita, che sono ovviamente strettamente legati. A proposito di buon senso, che c'è di vero in questa frase che ci ripetiamo spesso: una mela al giorno leva il medico di torno. Vabbè, ma lo sappiamo, c'è una roba vera da tempo. È quello, no? È comunque ricordare che c'è anche la frutta, ricordare che c'è un ritmo, ricordare che c'è un'attenzione a quello che vai a mangiare, che è quello che cerchiamo di raccontare in questo libro. Ovviamente si parla di siringa, ovviamente si parla di aerosol, spieghiamo perché sono così noiosi, però anche perché servono. Parliamo di vaccini, parliamo di morte e si parla di vita. Insomma, crediamo che sia necessario, per fare una buona divulgazione scientifica, anche con i più piccoli, toccare tutti gli argomenti, e poi bisogna usare le parole giuste, che è quello che abbiamo cercato di fare. Io ho assistito alla Fiera del Libro di Milano, quindi a maggio, a una presentazione del libro davanti a un, direi un centinaio, mm-hmm, di ragazzini e ragazzine, e Andrea Grignoli ha incominciato a spiegare lo scorbuto, ecco, che non è, insomma, una delle cose detta così più affascinanti. Erano stregati, sì, eh? Sono rimasto stupefatto. Evidentemente queste cose di medicina, se si trova l'approccio, funzionano molto sui giovanissimi, perché certo il nostro corpo, la malattia, le cose che non funzionano, ed erano stregati con un livello di attenzione che quando si parla di scienza è difficilissimo. Erano ragazzini e ragazzine delle medie, no? Affascinatissimo, hanno fatto un sacco di domande. Ma perché comunque la medicina è una cosa che di fatto conoscono, perché insomma già 10, 11, 12 anni hanno avuto mille visite, mille esempi di malattia anche, però la subiscono proprio, perché comunque non c'è mai un approfondimento, no? In questo caso abbiamo cercato di andare oltre. Un libro, insomma, per teste toste, e tu ne hai scritti altri di libri appunto per teste toste, esplorando le stelle, la matematica, i numeri. Sì, cerco di cercare risposte a cose che di fatto io non conosco, no? Perché comunque è vero che faccio divulgazione scientifica, però cerco di farlo sempre con questo approccio, di andare a spiegare cose che magari non sono tanto chiare neppure a me, e cerco di farlo con degli esperti, e cerco di tradurre in un linguaggio un po' più accessibile i loro concetti. Quindi l'abbiamo fatto con le nuove tecnologie, l'abbiamo fatto insieme a Margherita Hack, che abbiamo spiegato l'astrofisica, l'abbiamo fatto sull'evoluzione con l'amico Telmo Piovani, e insomma adesso siamo andati a toccare questo ambito che, rispetto agli altri, sai, è scienza, però tocchi anche un po' l'etica, tocchi dei tabù, quindi siamo entrati un po' più in punta di piedi e in punta di penna, però è stato un bel esercizio, sempre anche con un po' di ironia, che credo che sia poi una ricetta essenziale. Fondamentale. Però questa è una serie che potrebbe andare avanti con 10 libri, perché La medicina e le malattie è infinita, potresti fare un intero libro sui foruncoli e avere un rapporto magnifico con tutti i nostri bambini e bambine, no? Cioè è davvero, qui c'è poco di quello che avreste potuto dire, esatto. Qui, ma ovviamente il libro non può essere più grande di tanto. Oh, ricordiamo che ci sono anche dei disegni bellissimi, quindi questo è il classico libro che mamma e papà con il proprio figlio o figlia possono leggere. Eh sì, è proprio una scienza a misura di famiglia, assolutamente. Certo. Senti, ma chi ha inventato le siringhe? Perché insomma c'è questo luogo comune, appunto il terrore delle siringhe che hanno i bambini e le bambine, ma non solo. No, raccontiamo cosa c'era prima delle siringhe e passa subito il terrore per le siringhe attuali, perché c'erano delle cannucce che erano, insomma, già i romani le usavano, cannucce di diversi millimetri, se non, insomma, si avvicinavano a mezzo centimetro, esatto, quindi il dolore era sicuramente maggiore e questo ha portato ad apprezzare molto di più le siringhe attuali. E allora, perché si dice 33 di Federico Taddia ed Andrea Grignolio? A tutti e a tutte buona lettura e grazie Federico. Grazie a voi. Grazie. CrefoZert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, manca davvero poco ormai all'eclissi totale di sole che sarà visibile il 21 agosto e che potranno ammirare tutti coloro che saranno negli Stati Uniti, perché è lì insomma il teatro ideale per ammirare questo straordinario fenomeno. 9 giorni praticamente, si vedrà praticamente in tutti gli Stati Uniti, però noi non abbiamo interesse adesso all'eclissi dal punto di vista astrofisico, astronomico, mentre invece quello che ci interessa molto è raccontare un po' di storie connesse a questo fenomeno. E abbiamo qui con noi questa sera Giulio Magli. Buonasera Magli. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, Giulio Magli è professore ordinario di archeoastronomia al Politecnico di Milano e quindi con lei vogliamo proprio ripercorrere un po' miti e leggende sulle eclissi di sole, ma non solo, insomma, perché hanno affascinato e alimentato tanti miti e leggende anche le eclissi lunari. Però ricordiamo innanzitutto molto brevemente di cosa parliamo quando parliamo di eclissi. Sì, l'eclissi è un fenomeno molto semplice, la luna che attraversa il piano in cui si muovono la Terra e il Sole e quindi si interpone fra noi e il Sole creando un cono d'ombra. Invece l'eclisse di luna è la Terra che si interpone fra il Sole e la Luna creando a sua volta un cono d'ombra che fa ombra alla Luna. C'è un'enorme differenza però che è importante ricordare, cioè che in generale l'eclisse di Sole si vedrebbe soltanto come un oggetto che passa davanti al Sole, invece le dimensioni apparenti, cioè come noi vediamo la Luna dalla Terra, sono praticamente identiche a come noi vediamo il Sole, cioè circa mezzo grado. Questo significa che in alcuni punti, una fascia sulla superficie terrestre, la Luna fa un'ombra completa, fa sostanzialmente buio. Pensate che durante un'eclissi totale di Sole si vedono le stelle più brillanti. Questa è una caratteristica molto particolare della fisica del nostro satellite rispetto alla distanza che ha il Sole, mentre invece l'eclisse di Luna è uno spettacolo molto lungo che si può vedere da tantissimi luoghi e dura praticamente un'intera notte. Senta, parliamo di fenomeni che non sono particolarmente rari e che da sempre hanno alimentato e hanno affascinato noi esseri umani. No, né le eclissi di Sole né le eclissi di Luna sono particolarmente rare, però a differenza appunto, come dicevo, dell'eclisse di Luna che è visibile da larghe porzioni della superficie terrestre, questa fascia di totalità dove la Luna fa ombra completa è molto stretta e quindi essere proprio all'interno di un'eclissi totale di sole non è proprio così comune. In ogni caso hanno accompagnato la storia dell'umanità fin da sempre, fin da quando addirittura l'uomo ha cominciato a fare le prime raffigurazioni per esempio nelle grotte eccetera, che già all'inizio avevano un contenuto astronomico. Quindi l'interesse per il cielo e in particolare per dei fenomeni non ciclici, perché il ciclo delle crisi è complicatissimo da studiare, è stato sempre enorme. Però generava paura, timore, era visto negativamente nella maggioranza dei casi? Allora, questo è molto interessante, perché molti miti e molte leggende ci tramandano il terrore per le eclissi. Un esempio chiaro c'è nei popoli precolombiani, cioè nei popoli che abitavano l'America centrale e Sud America prima dell'arrivo dei conquistatori, prima dell'arrivo dei spagnoli. Per esempio per gli Inca l'eclisse era raffigurata come un animale, un felino, un puma, che aggredisce il sole e lo fa a pezzi. L'altro esempio sono i Maya, perché i Maya erano interessatissimi alle eclissi. I pochi codici dei Maya che ci sono rimasti, codici vuol dire libri, dei Maya che ci sono rimasti, hanno molte pagine, per esempio il codice di Dresda, famosissimo, molte pagine che rappresentano le eclissi. Però anche se questa mitologia c'era, quindi anche per i Maya, per esempio, in particolare l'eclisse di luna, perché la luna per il fenomeno della rifrazione si vede rossiccia, rossa, rosso sangue qualche volta addirittura, quindi era associato a idee di guerra, idee di sacrificio anche umano, no? Per i Maya, però allo stesso tempo erano interessatissimi alla, se volete, alla scienza dell'eclissi, perché ne tenevano traccia molto accurata con la speranza di poterle predire. Di fatto forse i Maya sono riusciti a predire almeno le eclissi di luna, quelle di sole forse no, ma almeno le eclissi di luna. Quindi c'è questa ambiguità fra la mitologia e poi un interesse invece molto concreto per cosa avviene nel cielo. Però l'eclissi è un fenomeno che inizia, mi spavento, posso pensare che un puma se la stia mangiando, però poi finisce, quindi ritornano le cose come prima. Com'è che era vissuta questo cambiamento dal negativo al siamo tutti più tranquilli, è tornata la luna? C'è qualche divinità che interviene e che addirittura per gli Aztechi fa risorgere un sole nuovo, fa risorgere una luna nuova che è stata fatta a pezzi, tutti i mesi è fatta a pezzi con le fasi lunari, e che viene addirittura distrutta dall'eclisse. Però vorrei dire qualcosa anche su un caso molto particolare di eclisse, sull'Egitto, perché in Egitto c'è stato un evento in cui l'eclisse è stata identificata in un modo molto speciale. Questo evento avviene durante la cosiddetta eresia di Amarna, cioè quando il faraone Akhenaten introduce il culto monoteista del disco solare. È un episodio molto famoso della storia egizia attorno al 1350 a.C. Allora, pensate che cosa succede. Il faraone introduce il culto del disco solare unico e subito dopo avviene un importante eclisse di sole proprio in Egitto. Allora lui che cosa fa? Perché l'Aten è il suo padre, il disco solare, e suo padre gli ha lanciato un messaggio, lo deve interpretare, e lo interpreta in un modo originalissimo, decide di fondare una città. Quindi la nuova capitale dell'Egitto, che si chiama Akhenaten, cioè che si chiama Akhetaten, l'orizzonte del disco solare, oggi è chiamata Amarna, viene fondata esattamente dove è passata la fascia di totalità di questa eclisse. È un aspetto curioso, l'unica città che io conosca che è stata fondata in virtù di un'eclisse. Senta, e poi se non sbaglio, se ci spostiamo in Togo o in Benin, c'è questo mito delle eclissi, secondo il quale durante un'eclisse appunto il sole e la luna litigano. Sì, sì, queste divinità vengono viste come antagoniste in moltissimi popoli. E tipicamente quello che succede è che non è vero che quando c'è una in cielo non c'è l'altra, naturalmente potete vedere la luna, anche in alcune fasi della luna sono visibili anche quando c'è il sole sopra l'orizzonte, però in principio c'è l'idea che queste due divinità si scambiano di posto, una è associata alla luce del giorno, l'altra alla luce della notte, quindi quando interferiscono fra di loro succede qualcosa di drammatico. Da questo punto di vista l'eclisse che stiamo aspettando è particolarmente interessante. Perché? Perché avverrà non in America, dove la si vedrà nell'Illinois eccetera, dove la si vedrà in modo molto spettacolare, ma nel nord Europa si vedrà un pezzetto di eclisse. Il sole tramonterà eclissato, per esempio se lo vedete dalla Scozia, da noi non si vedrà nulla. Questo è un fenomeno nel fenomeno, diciamo, un evento che avviene all'interno di questa eclisse, che senz'altro era considerato quando avveniva molto particolare dai popoli del passato, perché non si vedeva, come abbiamo detto adesso, è importante vedere la fine dell'eclisse. La fine di questa eclisse non si vede, perché il sole tramonta che è eclissato. Potevano pensare che il sole non sarebbe più sorto, perché non vedevano la fine dell'eclisse. Come coincidenza dei movimenti astronomici, questo è molto più raro. Sì, è molto più raro, bisogna andare nel posto giusto per vederlo. Senta, professor Magli, innanzitutto ricordiamo a chi è in ascolto che non bisogna fissare il sole senza protezione, perché questo potrebbe causare danni ovviamente agli occhi e alla vista, quindi non va fatto. Però un'altra curiosità: noi oggi sappiamo che dietro il fenomeno delle eclissi non ci sono demoni o divinità. Ecco, continuano però in qualche modo a suscitare qualche timore, qualche inquietudine. I fenomeni naturali che avvengono nel cielo purtroppo danno sempre adito a qualche forma di superstizione. Un caso famoso è quello della cometa Halley-Bopp, che passò ormai parecchi anni fa, ma che diede adito anche a episodi molto drammatici di suicidio collettivo, eccetera. L'arrivo dei fenomeni celesti è da sempre associato a qualche idea di catastrofe, eccetera, eccetera. Tranne che proprio in Italia, fra l'altro, perché il fatto che l'Italia sia associata a una stella viene addirittura da Giulio Cesare, perché quando Cesare morì comparve in cielo una cometa per caso. Ma Augusto, invece di interpretarlo come un brutto presagio, lo interpretò come Cesare divinizzato. Lui era il figlio, quindi gli faceva anche comodo. Ma è curioso che proprio un episodio così importante della nostra storia, diciamo, d'Italia, di Roma, sia invece un evento celeste interpretato in modo positivo. Però spesso invece, appunto, ancora oggi ci sono superstizioni. E allora, Giulio Magli, grazie per averci accompagnato nel tempo e nello spazio alla scoperta di miti e leggende legate alle eclissi di sole, ma anche di luna. Buona serata. Grazie. È passata mezz'ora. Che novità sulle strade? Ecco quelli del traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il calamaro gigante, quello che attacca il sommergibile di Nemo in 20.000 leghe sotto i mari. Il calamaro gigante è questa creatura marina che ha infatti ispirato romanzi, film, e comunque è una creatura marina di cui si occupano anche i ricercatori e le ricercatrici. Noi oggi ci colleghiamo con Giampaolo Coro, ricercatore appunto dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR. Buonasera, benvenuto a Mebius. Buonasera. Benvenuto. Perché lei ha cercato di capire dove è stato visto nei tempi il calamaro gigante e, possiamo dirlo con certezza, il calamaro gigante esiste? Sì, esiste. Esiste, e questa è una cosa che era ben chiara sia agli antichi greci che ai romani, che poi si è perso nel tempo, ma che abbiamo riconquistato, un'informazione che abbiamo riconquistato in tempi relativamente recenti. Ne parlava anche Aristotele. Sì, ne parlava anche Aristotele e anche Plinio il Vecchio, per i quali il calamaro gigante era semplicemente un calamaro di grandi dimensioni. Il mito del Kraken invece è nato dopo, nel Medioevo, e se ne ha evidenza in un manoscritto del re Sverre di Norvegia intorno al 1180, ed è da lì che nasce il mito del calamaro gigante, che poi in realtà all'inizio non era un calamaro, ma era qualcosa di mostruoso che è stato poi, la cui figura è stata arricchita nel corso del tempo. Quindi si ipotizzava a volte che il Kraken fosse addirittura un'isola con dei tentacoli, o comunque in generale un mostro che affondava le navi. Certo. Ed è solo nell'Ottocento invece che si è ritornati a capire che era un calamaro di grandi dimensioni, che però aveva delle caratteristiche molto particolari. Kraken, lei ha detto, cioè questa definizione che effettivamente sa un po' di mostro dei film giapponesi, no? Da dove nasce? Cioè Kraken vuol dire proprio mostro marino, una roba del genere? Sì, in realtà si riferisce sì a un mostro marino in generale che poteva affondare le navi, e in realtà è quindi un termine norvegese. Okay. Diciamo, nel Novecento c'è stata un po' di confusione, perché mentre nell'Ottocento comunque il Kraken era stato associato alla figura di un calamaro gigante, poi reinterpretato come polpo gigante da Jules Verne, poi nel Novecento invece il folklore si è incredibilmente arricchito, ma è andato di pari passo con aspetti scientifici che ne hanno identificato quindi il comportamento, anche le prede, e insomma ne hanno investigato la natura scientifica. Ma Giampaolo Coro, gigante quanto? Gigante, beh, sicuramente può arrivare fino ai 18 metri di lunghezza, e in realtà si ipotizza anche a 20 metri. A quanto tempo fa risale però il primo spiaggiamento certificato di questo cefalopede? Stiamo parlando appunto del calamaro gigante. Sì, e nel 600, quello è stato il primo ritrovamento certificato, quindi nel 1639 esattamente, però in realtà questo si trattava di un tentacolo che poi è stato riscoperto nel corso dell'Ottocento, perché non gli era stato dato il giusto peso all'epoca. E quindi in realtà poi c'è una cosa curiosa, che il termine Kraken adesso si usa anche di più rispetto all'Ottocento, perché si è un po' fuso il mito medievale con altri miti, e ci sono esempi recenti che hanno per esempio messo il Kraken all'interno di una leggenda greca, come per esempio il film Scontro tra Titani, sia quello degli anni 80 che poi il remake del 2010. Dice, è stato fatto proprio un errore voluto nel quale il Kraken è stato messo nel mito di Perseo. Ecco, è un po' una confusione che noi abbiamo oggi. Però continua un po' il mito, lei dice. Sì, il mito continua, perché comunque si tratta di un animale eccezionale che è stato filmato per la prima volta nella storia dell'umanità nel suo habitat naturale solo nel 2012. Quindi è stata da una spedizione finanziata da Discovery Channel che è riuscita finalmente a trovarlo nel suo habitat naturale. Però si vede che non è un calamaro, ecco, semplicemente di grandi dimensioni, è qualcosa di più, e inoltre attorno a questa figura ruota anche una certa biodiversità. Il calamaro gigante può essere anche un indicatore del degrado della biodiversità di un certo ecosistema. Perché questo? Perché così come con tutte le specie rare c'è un insieme comunque di specie che sono correlate in qualche modo alla presenza del calamaro. Addirittura di questo se ne erano accorti anche i norvegesi centinaia d'anni fa, perché pensavano che appunto quando uno faceva pesca grossa sotto praticamente ci fosse il cosiddetto Kraken. Ecco, dalla Norvegia ci spostiamo in Giappone, perché se non sbaglio al 2015 risalgono gli ultimi avvistamenti di questo gigantesco mollusco proprio in Giappone. Voi avete realizzato una mappa degli avvistamenti del calamaro, ecco, ci accompagni un po' in giro per il mondo per capire dove effettivamente è stato visto e quindi dove plausibilmente vive questo calamarone? Sì, allora noi abbiamo preso tramite un'infrastruttura informatica che abbiamo realizzato qui al CNR, abbiamo fatto questo esperimento, abbiamo preso delle osservazioni che in realtà alla fine non sono tantissime, le osservazioni certificate, le abbiamo correlate con le caratteristiche ambientali dei posti in cui erano stati avvistati i calamari. Quindi sia in superficie, si parla tipicamente in superficie di calamari giovani, che poi di esemplari morti, quindi che stavano alla deriva. Quindi abbiamo preso le caratteristiche ambientali di quei punti, abbiamo cercato di capire quali fossero gli elementi che gli piacevano, insomma, che potevano piacergli e che quindi costituivano un habitat favorevole per il calamaro. E abbiamo proiettato queste preferenze nei mari di tutto il mondo, quindi addestrando quello che è stato un modello di intelligenza artificiale. In realtà ne abbiamo addestrati circa 100.000, abbiamo selezionato quello migliore. Quindi da questa miriade di calcoli abbiamo prodotto una mappa di probabilità che rappresenta dei punti di calore, insomma in rosso, in cui l'habitat è più favorevole per il calamaro. E questi punti, queste zone in realtà, si localizzano un po' dappertutto, quindi sia nell'Oceano Atlantico, quindi nel nord e nel sud, prettamente vicino alle coste dell'America Latina e anche degli Stati Uniti, ma anche in Canada, e poi anche in realtà nel Pacifico e nell'Oceano Indiano. Perché la mappa evidenzia poi una cosa che è stata scoperta poi, è stata riscoperta recentemente, cioè che sebbene siano state identificate circa 3 o 4 specie di calamaro gigante, in realtà queste specie sono tutte la stessa, un'unica specie che si può chiamare e identificare come Architeutis dux a livello scientifico. Quindi è una specie che fondamentalmente può vivere in tutto il mondo, anche se poi ci sono dei punti in cui è più probabile incontrarla. Ci sia. Senta, però ma bisogna andare a fondo. Bisogna andare a fondo. Profondo. Ma Rimini, Imperia, cioè da noi non c'è. Da noi in realtà è stato avvistato vicino alle coste della Spagna e poi c'è un caso non certificato vicino a Cannes addirittura, ma in realtà sono probabilmente degli esemplari che sono entrati dallo stretto di Gibilterra, tirati magari. C'è una zona favorevole al centro del Mediterraneo che potrebbe costituire un habitat nel quale può vivere il calamaro gigante, ma alla fine ci sono degli impedimenti geografici che ne vieterebbero poi il raggiungimento. Perché in ogni caso stiamo parlando di quali profondità? Circa 1000 metri e acque abbastanza fredde. Perché poi il problema è che quelli che vediamo, ne è stato anche filmato uno abbastanza vivo un paio d'anni fa, loro vengono in superficie, ma questa roba, questo gesto purtroppo è un gesto estremo, no? Loro, insomma, sono creature abissali. Sono creature abissali. E fuori muoiono. Sì, si pensa che in realtà quelli giovani vivano più insomma in superficie, quindi sono, è per quello che a volte vengono avvistati, ma sono esemplari relativamente insomma corti, piccoli. Però a mano che invecchiano poi scendono sempre più in profondità e infatti a 1000 metri insomma si pensa che ci siano anche calamari di 20 metri di lunghezza. Senta Giampaolo Coro, gli stessi strumenti, le stesse tecnologie le avete utilizzate e li state utilizzando per realizzare delle mappe digitali di altre specie marine? Sì, queste mappe digitali vengono utilizzate sia per calcolare appunto l'habitat di altre specie marine. Fino ad oggi ne abbiamo calcolati insomma circa 11.500 e poi anche per capire quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sugli habitat di queste specie, perché noi possiamo proiettare questi habitat anche nel futuro, ad esempio nel 2050, e capire chi è che perderà habitat e chi invece lo guadagnerà. Grazie, buona ricerca di calamari, è veramente una ricerca strana, però molto fascinosa. Molto suggestiva, Giampaolo Coro, grazie per essere stato con noi questa sera a Mebius su Radio 24. Grazie a voi. Finito, non ho più storie. Tu? Oggi no, ma vi aspettiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Qui, fra 7 giorni. Buona settimana a tutti. E a tutte.